avere un dono che posso condividere col mondo. D'ora in poi ci sarà un nuovo Barney Gumbo. Sarò sempre pulito e sobrio. Congratulazioni, Barney. Goditi il tuo premio fino all'ultimo goccio. Una provvista vita di birra da pazzo. Iniettatemela direttamente nella vena.